370. Pasticcio freddo di cacciagione. Prendiamo per esempio una starna o una pernice e con essa facciamo un pasticcio che potrebbe bastare per 6 o 7 persone. La starna, Perdrix cinerea, si distingue dalla pernice, Perdrix rubra, perché questa ha i piedi e il becco rosso ed è alquanto più grossa. Sono gallinacei dell'ordine dei Rasores. Si nutrono di vegetali, particolarmente di granaglie, e però hanno il ventriglio a pareti molto muscolose ed abitano i monti dei paesi temperati. Le loro carni sono ottime, di sapor delicato, ma fra le due specie la pernice è da preferirsi. Eccovi gli ingredienti per questo pasticcio. Una starna, oppure una pernice alquanto frolla. Fegatini di pollo numero 3, rossi d'uovo numero 1, foglie d'alloro numero 2, marsala 2 dita di bicchiere comune, tartufi neri grammi 50, lingua salata grammi 50, prosciutto grasso e magro grammi 30, burro grammi 30, una midolla di pane grossa quanto un pugno, un piccolo battuto di cipolla, carota e sedano, un poco di brodo. La starna, vuotatela, lavatela e mettetela al fuoco col detto battuto, col burro, col prosciutto tagliato a fettine, con le foglie d'alloro intere e conditela con sale e pepe. Quando la cipolla avrà preso colore, bagnatela con la marsala versata poco per volta e se non basta per ritirar la starna a mezza cottura, servitevi del brodo. Tolta la starna dal fuoco, levatele il petto e formatene 8 filetti che lascerete in disparte. Il resto tagliatelo a piccoli pezzi per tirarli a cottura intera, unitamente ai fegatini, quello della starna compresovi. Cotta che sia questa roba, levatela asciutta e mettetela in un mortaio, gettando via le foglie dell'alloro. Nell'intinto che ancora resta, gettate la midolla del pane e con un poco di brodo, rimestando, fate una pappa che verserete anch'essa nel mortaio, come pure la raschiatura dei tartufi, e pesterete ogni cosa ben fine per passarla dallo staccio. In questo passato stemperate il rosso d'uovo e lavoratelo bene col mestolo per mantecarlo. Ora formate la pasta per coprirlo, servendovi della ricetta numero 372. Prendete uno di quegli stampi speciali per questi pasticci, che sono fatti a barchetta o rotondi, scannellati di ferro bianco, a cerniera che si apre, ungetelo col burro e tirata la pasta sottile poco più di uno scudo, foderatelo con la medesima e fategli il fondo che poserete sopra una teglia di rame unta anch'essa col burro. Prima gettate nel fondo parte del composto e disponetevi sopra una parte dei filetti, petto della starna e lingua, ed alcuni pezzetti di tartufi grossi, quanto le nocciole, e crudi. Poi altro composto, intramezzato di tartufi e filetti, e così di seguito, se il pasticcio fosse voluminoso. Pigiatelo bene perché venga tutto unito e compatto e fategli il coperchio della stessa pasta con qualche ornamento, lasciandovi nel mezzo un buco onde sfiati il vapore. Dorate il di fuori e cuocetelo in forno o nel forno da campagna e quando lo levate coprite il buco con un fiocco della detta pasta fatto a misura e cotto a parte. La stessa regola potete tenere per un pasticcio di 2 beccacce le quali non hanno bisogno di essere vuotate né degli intestini né del ventriglio. Soltanto verificherete che nelle parti basse non vi sia qualcosa di poco odoroso.